Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. A Roma si sa quello che faranno i turisti. Guardiamo quello che facciamo noi per accoglierli. La stazione Termini vale le migliaia di ore lavorative che è costata. Sul posto c'è il vigile urbano poliglotta. I turisti sono una massa di cittadini provvisori che accrescono la domanda di servizi e noi stiamo appunto osservando il turismo da questo punto di vista economico. Per esempio, Piazza di Siena a Roma è il campo dei concorsi ippici internazionali. Ciò vuol dire richiamo di nuove correnti turistiche e conseguentemente lavoro per stuoli di operai, di artigiani, di esercenti. Ci sono giorni in cui i fedeli convengono dai quattro punti dell'orbe in Piazza San Pietro per ricevere la benedizione che scende dal loggiato. E Roma, con una moltiplicazione dell'ospitalità, deve adempiere alla sua missione di capitale cattolica. Se sulla piazza l'eternità del sacro scende nella storia, nei cortili vaticani l'attualità del presente recupera le solenni dimensioni della storia. Quando è il giuramento della Guardia Svizzera, il sole del nostro secolo pare essersi alzato su un mattino del Cinquecento. Gustare il classico sapore di una terra nelle sue vivande tradizionali è un altro modo di fare del turismo. No, pensate, questa orribile lettura del quotidiano di una città come Roma. Era il 54, l'anno in cui io nascevo. Nacque in un anno molto disgraziato, l'orbe, la gente che la mattina si svegliava per guardare le guardie svizzere, ma forse probabilmente oggi le cose sono molto diverse. Oggi io vivo in una città d'arte, nato in una città d'arte che è Perugia, e vissuto per il resto lo sgocciolio della mia vita in un'altra città d'arte che è Roma. Devo dire che osservo le città d'arte da il giorno in cui sono nato, in cui il fatto di vivere in questa piuttosto che una città di tipo diverso, senza particolari attrattive di tipo artistico, che si ha l'impressione di essere al centro di un'enorme transumanza di gente che viene da tutti i paesi per vedere quello che per te è il tuo quotidiano, sono le strade che, attraverso le quali passi ogni giorno, rendendoti nemmeno conto della meraviglia in cui vivi. Ora, visto che siamo in tempo di vacanza, in tempo in cui le persone si muovono anche per vedere le città, esiste un punto di vista privilegiato che non è né quello di chi gestisce il patrimonio artistico della città, le amministrazioni, né dal punto di vista di chi comunque le visita le città, che comunque ha i suoi chiaroscuri, i suoi aspetti positivi, i suoi aspetti negativi, le sue lamentele, che poi esprime attraverso quelle maniere di e partecipazione diretta, che possono essere i trip advisor, dire quell'albergo mi è piaciuto o non mi è piaciuto, li ho mangiato bene o ho mangiato male, che sono un po' il terrore di tutti gli albergatori. Ma riguardo appunto a la linea di interconnessione tra chi visita e tra il luogo che è visitato, esiste una figura chiave che molto probabilmente è una di quelle di cui si parla meno, che è la guida turistica. Avete sentito l'introduzione, i vigili poliglotta, che era una realtà tipica degli anni 50. Otello Celletti, il vigile di Alberto Sordi, deve gran parte della sua pretesa di far carriera di superare l'esame di francese, che poi non supererà mai, per lui sarà impossibile, capito, per poter avere la possibilità di rispondere ai turisti in lingua francese. Oggi è ben diverso: in una città come Roma si entra in una sorta di difficoltà di individuazione fra le figure chiave dovrebbero darti un'idea di quelli che sono i luoghi da visitare, la maniera di visitarli meglio, e quelli che sono, diciamo, gli assaltatori di turista, che molte volte assaltano anche le persone come me, che nulla hanno di turista, magari hanno un'area un po' svagata o un po' di persona che cerca la strada e quindi forse non è del posto. Sono dei signori con delle pettorine, con delle cifre, dei numeri di telefono, di nazionalità probabilmente indiano, del Bangladesh, lì, che ti fermano, ti danno dei piani in mano e ti dicono dei posti puoi vedere, o delle persone possono farti vedere dei posti. Poi ci sono le guide quelle autorizzate, specializzate, che fanno del portare i visitatori a visitare i luoghi una vocazione professionale. Il loro è un lavoro non facile, perché ogni giorno devono interfacciarsi con delle realtà totalmente diverse, totalmente differenti, sia nazionali sia non nazionali. La loro è una categoria molte volte che non ha nemmeno il giusto riconoscimento, la giusta dignità di esprimersi professionalmente. Questa mattina ho in studio due guide turistiche, due persone che di mestiere fanno la guida turistica, sono rappresentative di una categoria che opera nelle maggiori città d'arte italiane, e con loro cercheremo di capire qual è appunto il punto di vista di chi vede le persone attraversare le città e di chi vede quelli che possono essere anche tutti i problemi che hanno le nostre città nel valorizzare al meglio il loro patrimonio artistico, perché in fondo la vulgata sulla quale più ci stracciamo le vesti, siamo seduti su una miniera d'oro, non la sappiamo sfruttare. Ora, oggi non faremo il processo alle istituzioni che male usano il patrimonio artistico, sperperano i soldi, ma cercheremo semplicemente di capire da quali linee di forza è articolato e organizzato il flusso di persone che attraversa le nostre città d'arte in giornate anche come quelle di oggi. 800 24 00 24, tra un istante cominciamo. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica vi presenta Melog, cronache meridiane. Per Venezia è squillato in Italia il campanello d'allarme. La città è in pericolo. Il moto ondoso provocato dai vaporetti corrode le fondamenta dei suoi palazzi. Le ondate ricorrenti del turismo di massa corrodono le sue tradizioni di città, cara al turismo di classe. Se ne parla in ogni riunione, se ne discute alla Camera, si polemizza sui giornali. Quanti giorni si trattiene? Solo 2 giorni. Certo, 2 giorni sono pochi per visitare una città che in ogni angolo nasconde una sorpresa. Una città che è un caleidoscopio di bellezze. Bisognerebbe centellinarla, Venezia, come facevano i turisti di una volta. Vero, gondoliere? Beh, guardi, per noi anziani che abbiamo già una certa esperienza, possiamo dire che in questi ultimi anni c'è stato un certo movimento, sì, ma un movimento di massa che per noi non rende molto. Quello che ci rendeva molto per noi era il turismo di qualità, cioè il turismo di classe, diremmo, non è vero? Quello dava meno movimento di lavoro, ma rendeva molto di più. E certo, era molto meglio quando a Venezia arrivava von Eschenbach che dilapidava patrimoni in bei ragazzetti biondi, e oggi è chiaro che un po' più di gente vuole vedere le belle città e il turismo di massa per il gondoliere che già negli anni 50. Pensate quale possa essere stato il turismo di massa degli anni 50 a Venezia, probabilmente rispetto a quello che accade oggi, dove c'entrano addirittura con le navi da crociera e gliele fanno vedere da lontano e scassano la città. Isabella Ruggero, 2 giorni per vedere Venezia. Qual è il maggior condensato che tu conosci di persone che vedono una città? In quanto hai visto vedere Roma nel minor tempo possibile? Intanto buongiorno a tutti. Ci sono gruppi purtroppo che vedono Roma in un giorno. Questo molto spesso, soprattutto per le popolazioni asiatiche, per esempio, quelli cinesi spesso si fanno una settimana per tutta Italia o tutta Europa. Invece la media per, diciamo così, persone che vengono soprattutto dagli Stati Uniti, in media è 3 giorni, 2 o 3 notti massimo. Allora, Isabella Ruggero è guida turistica abilitata, ho detto autorizzata, ma in realtà abilitata è il termine, sì, giusto, bisogna usare le parole giuste, è presidente dell'AGTAR, che è l'associazione guide turistiche abilitate a Roma. Voi siete quelle che hanno un'abilitazione, un tesserino per fare le guide turistiche. Esatto, perché in realtà per essere guida ufficiale bisogna passare a avere l'abilitazione, in genere tramite non è veramente un concorso ma è un esame, e che viene tenuto o dalla provincia o dalla regione, perché cambia a seconda delle parti d'Italia, perché si richiede che la guida sia altamente specializzata. Questo è il motivo per cui la guida italiana, tra l'altro, è molto diversa dalle figure professionali, diciamo, simili dell'Europa. In Europa, dove non ci sono tanti beni culturali come i nostri, si può facilmente anche poter spiegare tutta la Germania, diciamocelo, tutto il Belgio. Invece l'Italia ha un tale patrimonio, una tale quantità, che è impossibile per una guida da sapere veramente bene, essere una buona guida in tutta Italia. Quindi avete un perimetro che vi specializza. Sì, esatto. Ad esempio tu cosa vuoi fare? Roma? Io Roma e provincia, quella che era la provincia, adesso non c'è più, l'area metropolitana, e siamo così. Per esempio ci sono regioni, la Puglia per esempio è tutta la regione, così la Sardegna, Toscana invece come noi è divisa in province. C'è da dire che adesso poi recentemente con l'apertura delle frontiere è stata in realtà anche, c'è una nuova legislazione legislazione per cui le guide di tutta Europa hanno, diciamo così, frontiere aperte e le guide degli altri paesi europei possono venire a spiegare qui da noi, noi potremmo andare negli altri paesi. Tutto questo ha creato non poche proteste e dubbi da parte delle guide per la difficoltà poi di essere brave allo stesso modo in tutta Europa. È chiaro che una persona... Scusa, tu non puoi andare a Viterbo e uno da Parigi può venire qui a Roma? Allora, diciamo che io a Viterbo tecnicamente, ufficialmente ci potrei andare a seconda di come interpretiamo la legge, diciamo così. Ah, la legge italiana non c'è certezza, a seconda di come si interpreta da parte di alcuni esperti pare che sembra che siamo già ormai con le frontiere aperte, quindi ci sono moltissime guide ormai che sinceramente vanno da una parte all'altra d'Italia e spiegano anche in altre regioni. Ci sono regioni per esempio dove la Campania, in cui invece questo non è permesso, diciamo noi italiani come siamo sempre perché? Un po' caratterizzati perché è determinata la regione? non hanno recepito questa nuova libertà di frontiere, quindi diciamo che noi italiani siamo sempre un po' particolari a recepire le leggi in maniera autonoma, locale. E però c'è da dire che effettivamente spieghiamo qual è la difficoltà. Allora, noi in Italia siamo organizzate con appunto l'abilitazione e quindi le guide hanno un livello di preparazione altissimo, che poi se voi ne parleremo non è solo preparazione culturale, si tratta anche di sapersi gestione, gestire esatto, sui monumenti, gli orari. Immagina quanto è difficile lavorare a Roma. In Europa è difficile viverci, penso un po' a lavorarci. Esatto. In Europa invece non esiste la figura, in molti paesi d'Europa tranne appunto Grecia, così via, non c'è la nostra figura. Ci sono gli accompagnatori. L'accompagnatore è quello che in genere noi vediamo andare con il gruppo sul pullman, è quello che si occupa anche dei problemi tecnici, cioè dell'aeroporto, delle valigie, della logistica. E quindi in molti paesi questa è la figura che fa sia da guida che da accompagnatore. E quindi il problema è poi per molte guide, per le guide italiane, ritrovarsi a essere equiparate a quello che invece è un accompagnatore. Perché a te chiedono europeo. Prenotami l'albergo dopo, c'è questo rischio, perché pensano che possa che il tuo servizio comprenda anche questo. Esatto, ma qual è il motivo di tutto questo in realtà per cui è stata cioè l'apertura delle frontiere? Diciamocelo, i grossi tour operator ormai sono tour operator internazionali. I tour operator internazionali hanno le loro sedi nei paesi in cui la gestione dell'attività delle compagnie costa meno, che può essere Slovenia e così via. Loro gestiscono poi i tour in tutta Europa. E cosa fanno? Una volta organizzato il gruppo, che può partire dall'Inghilterra o da Germania o dove sia, lo fanno accompagnare da chi? Non dalle guide locali, come si faceva fino a 2 anni fa, che ovviamente sono più costose ma molto specializzate. Preferiscono mandare il gruppo per tutta la settimana o il mese con un accompagnatore di quei paesi, come al solito, dove la manodopera costa meno, e quindi mandano accompagnatori sloveni o così via a far da guida in Italia. Esattamente l'opposto di quello che avviene nell'industria. Invece che esportare l'industria in luoghi, esatto, dove la manodopera costa meno, qua mandano la manodopera a basso prezzo, sì, e quindi voi state a guardare, aprono grossi gruppi con la loro guida e non potete fare nulla. Esatto, moltissime guide hanno perso lavoro negli ultimi 2 anni proprio perché i grossi tour operator preferiscono pagare meno accompagnatori meno specializzati. Paola Secco, buongiorno. Alta buongiorno. Guida turistica, collega di Isabella. Vediamolo di entrare un pochino più nel problema, poi dal punto di vista reale e concreto. Mi sembra aver capito, non immaginavo che ci fossero problemi anche così complessi proprio dal punto di vista della professione, che però la vita non è poi facilissima. Già nella non facile vita dal punto di vista proprio delle normative, dei cambiamenti e delle mutazioni. Vediamo di capire un po' le differenze fra le varie tipologie di turisti che attraversano una grande città come Roma, ma poi probabilmente i problemi sono simili anche in altre città. Prima sono stati citati i cinesi che vengono, se ne stanno un giorno e se ne vanno. Ecco, come si comporta ad esempio un gruppo di cinesi? Intanto 800 24 00 24, avete avuto modo di avere esperienza di guide turistiche di vario tipo, di varia tipologia nei vostri viaggi, nelle vostre visite, o siete guide turistiche, state in altre città che non sono Roma, siamo qui per ascoltare il vostro contributo. Allora Paola, hai mai trattato gruppi di cinesi? No, diciamo, noi li vediamo perché hanno le loro guide. Ecco, poi diciamo che di guide ma loro vanno a mangiare solo nei ristoranti cinesi. Sì, vanno a mangiare nei loro ristoranti cinesi. Cioè vengono in Italia e vanno a mangiare nei ristoranti cinesi. Sì, sì, perché amano la loro cultura e non intendono poi così calarsi in quella occidentale. Ma che ci vengono a fare allora? Beh, ci vengono perché Roma, come tutte le altre città d'Italia, è una città ricca d'arte. Gli piace fare un giro, ma fanno per conto loro. Se lo fanno anche molto veloce, e non solo loro, ci sono anche coreani. Anche i coreani vanno nei ristoranti coreani. Cinesi, perché poi di coreani o cinesi, poi adesso non lo so bene. Comunque noi li vediamo, ci sono ordini di questi gruppi. Ecco, poi queste masse di persone passano intoccate e intoccabili da quella che è, diciamo, l'organizzazione nostra locale di gestire il turismo. Beh sì, perché alla fine ci sono agenzie per cinesi come per coreani, si gestiscono tutto loro, questo sì. Ma certo, tante volte ci si lamenta, cioè il nostro patrimonio turistico potrebbe rendere chissà quanto, rende più mezza giornata di un museo di Londra che tutti i musei d'Italia messi assieme. Ma se ci passa in maniera così incontrollata e incontrollabile una massa così grossa di persone, non dobbiamo nemmeno lamentarci. Siamo territorio di transito, non è che gestiamo il nostro patrimonio. Beh, per quanto riguarda questo tipo di turismo orientale, sì, diciamo che si servono dei loro negozi, dei loro ristoranti. Cioè ristoranti gestiti da cinesi, negozi... Sì, anche, sì, gestiti i negozi da loro, in la maggior parte sì. Vanno in negozi anche per cinesi? Sì, anche, sì. Come funziona? Che ci sono dei prodotti made in Italy, così detto. Made in Italy, ma fatti per cinesi? La maggior parte delle volte sì, per un mondo, diciamo, orientale, ecco. Cioè, una realtà orientale, ovvero sono delle marche che poi non si vedono così spesso negli altri negozi, quindi forse non le faranno nemmeno gli italiani probabilmente. Ma su questo non saprei, non sono così specializzata su questo settore, ecco, ho avuto modo di vederli, però chi sono invece i migliori, accompagno. Quelli che ti danno più soddisfazione? Beh, io intendiamo di tutte le nazionalità, io faccio prevalentemente francesi. E ovviamente i francofoni, che potrebbero essere anche canadesi, belgi della Francia. E comunque chi mi dà più soddisfazione? I francesi normalmente sono colti, la maggior parte, poi certo non si può generalizzare, quindi arrivano già preparati, hanno già le idee chiare su quello che vogliono visitare, e apprezzano molto le bellezze di Roma. Questo ecco, sapevo che noi nella nostra intuizione avremmo suscitato una sorta di faida interna, e gli accompagnatori sono sentiti mettere in un rango diverso rispetto alle guide abilitate, diranno la loro. Francesco, buongiorno. Buongiorno, senta, siccome ho sentito la... Lei è un accompagnatore, tanto per cominciare. Io sono un accompagnatore turistico, sì. Da come l'ha descritto la signora prima, che non so come si chiami perché l'ho acceso Isabella Ruggero dell'ACTAR, Associazione Guide Turistiche Abilitate. Ah, ecco, sicuramente la conoscerò. Non è così secondaria la figura dell'accompagnatore, specialmente in Italia. Prendo gli accompagnatori italiani, non infatti sono... parlavo di quelli europei, però lei parla degli accompagnatori europei. Conosciamo bene il livello di qualità vostro italiano rispetto a quello europeo. Avevo parlato infatti di quelli bene, europei. Allora ritiro tutto, no, perché se no si mette in una, dice voi l'accompagnatore italiano è di qualità altissima. Ecco, beh, allora basta. Francesco, mi faccia capire. È vero che esistono questi grossi tour operator che vanno a raccogliere manodopera, dove naturalmente costa meno, quindi i grossi gruppi, la fetta grossa del turismo, quello che proviene ad esempio dai paesi dell'est, che è un turismo anche danaroso, che spende molti soldi. Mi è capitato di vedere giorni fa in una località sciistica italiana sci con gli attacchi placcati d'oro soltanto per i turisti russi che andavano lì, quindi c'è, diciamo, un bel mercato. Poi usa accompagnatori, quindi figure professionali come la sua, prese proprio nei posti dove costano meno, quindi arriva un pacchetto chiuso nel quale nessuno di noi ha possibilità di avere il suo giusto guadagno. Sì, questo è un grande errore, perché l'accompagnatore ha una visione più unilaterale, cioè nel senso più globale, scusi. Ma è giusto, ci deve essere accompagnatore, chi è che organizza il viaggio, se no è giusto che ci sia. Ma che vengano, se li portino da casa loro quelli no, che costano. No, questo è sbagliato, perché come conosce la guida la propria città, non lo può conoscere l'accompagnatore, perché altrimenti l'accompagnatore deve essere un cervellone enorme, perché noi facciamo quasi tutto il mondo. Come faccio io a conoscere Berlino, Roma, Parigi, Amsterdam, così come lo conosce la guida locale? Quindi questa è una grande, non voglio dire una parolaccia, che stanno facendo in Europa. Perché sì, però vi faccio capire, mi sembra di aver capito che però... Spoiler ci accompagnerà un istante, visto che c'è un punto di vista interessante. La domanda che lascio e la risposta la voglio fra un minuto, dopo la pausa che daremo per le informazioni del traffico. Mi sembra di aver capito che questo grande turismo di massa che noi vediamo circolare, diciamo che bello, tanti turisti, tanto benessere, alla fine è un circuito chiuso, blindato, se ne vanno per i loro circuiti, per i loro percorsi, non hanno grandi esigenze di approfondimento culturale, meno di qualità del turismo. In fondo sono messi in una sorta di vagone blindato dalla loro città di partenza, si fanno un bel giro guardando tutto dal finestrino e se ne tornano a casa senza che in realtà le persone che di mestiere, di professione si potrebbero avvantaggiare questo flusso turistico possano nemmeno sfiorarli. Ci fermiamo un istante, resta in linea anche Francesco e poi voglio sentire come la pensa anche lei. Melog, cronache meridiane. Vedete, abbiamo provato questa mattina a spostare un attimo il punto di osservazione prendendo quello delle persone che per mestiere, per professione si occupano del turismo, e viene fuori anche un aspetto problematico, probabilmente non tutti avevamo così a fuoco. Noi siamo sì il paese con il maggior patrimonio culturale e turistico del mondo probabilmente, ma siamo un paese di passaggio e ci attraversano grandi flussi di turisti che poi alla realtà è più l'attrito fisico che operano nelle nostre opere d'arte rispetto al beneficio economico che potrebbero portare al paese. Stiamo parlando con due guide turistiche della ACTAR, che è l'associazione guide turistiche abilitate a Roma, Isabella Ruggero e Paola Secco. Ci ha chiamato l'accompagnatore Francesco. Francesco, mi conclude il pensiero, la domanda che avevo posto io, poi sentiamo le nostre signore studio, sul fatto che se anche lei ha l'impressione che siamo un paese di passaggio in cui potremmo gestire meglio il nostro patrimonio. Sì, questo è assodato, è così, perché siamo noi che non riusciamo a fare, siamo in Europa o i quarti dopo la Spagna e la Francia. Questo fa ridere, cioè un paese come il nostro, come diceva giustamente lei, che siamo i più ricchi anche come beni dell'umanità, quindi i più ricchi al mondo, che hanno tutto visto degli altri, e poi questo fatto di non far rispettare le cose come si deve. Per esempio, questi personaggi che vengono in Italia per fare accompagnamento e guida non dovrebbero essere permessi nel modo più assoluto. Ma chi sono queste nazioni? Sono nazioni, una Francia non si permetterebbe mai, come una Spagna, sa benissimo che ci sono dei beni da studiare come si deve, da imparare come si deve. Vengono questi gruppi un po' che gli importa solo quanti abitanti a Roma e vedere il gladiatore. Per questo io sono contrario, quindi sono a favore delle guide moltissimo, perché ognuno conosce bene la propria città, e poi le guide di Roma sono preparatissime, è un po' dappertutto. Quindi sostituirle non è il caso e non è proprio necessario. Grazie Francesco. Silvio, buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono un artigiano e mi sono inventato un sistema che è arti turistico. Lavoriamo con le guide, sono un cioccolatiere nella provincia di Cuneo. Noi lavoriamo con guide sia di origine straniera, che portano i gruppi stranieri, e con guide italiane. Volevo solo così dire, le nostre guide sono molto preparate, non c'è problema. No, mi faccio solo per capire, Silvio, come funziona il suo business? Lei riceve, diciamo, richieste da parte di agenzie straniere e le convoglia sulle nostre città italiane? Allora, no, io prevalentemente intorno alla mia, io ho creato un business legato all'artigianato del cioccolato, ho fatto un piccolo museo autofinanziato, muoviamo circa 50-60 mila persone all'anno nella mia struttura a Vicoforte, in provincia di Cuneo, un paesino di 3.000 abitanti, però ho cercato di dare forte professionalità e forte serietà al progetto. Il problema è che noi in Italia crediamo troppo poco nelle nostre capacità, siamo molto ballerine, ci vendiamo per un centesimo in più o in meno, e spesso facciamo il gioco di questi pseudo organizzatori turistici. Noi avremmo bisogno che il ministro del turismo dasse più autorevolezza a quello che è l'apparato organizzativo, perché noi non siamo bravi a organizzare, mentre siamo bravi a fare le cose. Noi dobbiamo credere assolutamente nel nostro territorio e poi avere dei punti fermi, perché la gente che viene in Italia, se trova un qualcosa di attraente e determinato, lo rispetta, quando ci vede ballerine ci schiaccia. Questo è il problema. Noi le guide americane, francesi, io faccio un corso di pasticceria tutte le sere alle 6 ai clienti e lo facciamo nelle diverse lingue, e spesso abbiamo le guide che ce li portano apposta, quelle straniere, quelle che prima ho sentito dire a volte non sono professionali, non sempre non lo sono, ma cercano autorevolezza. Il problema è che noi italiani scimmiottiamo troppo la mediocrità a cui, e quindi rischiamo di essere nella mediocrità di seconda scelta. È chiaro, Silvio, ho capito. Allora, Isabella Ruggero, ricordo che è presidente l'ACTA, che è l'Associazione Guide Turistiche Abilitate a Roma. Vediamo di capire il problema, però con episodi, con dimostrazioni concrete, pratiche, per far capire. L'amico Silvio, che si è organizzato un suo piccolo giro a Cuneo specializzato nella cioccolata, quindi è un'eccellenza, chiaramente chi vuole fare il turista della cioccolata, pasticceria, andrà con lui. In una città grande è un po' più generica e generalista l'esigenza, non si può... Certo, e allora innanzitutto vorrei chiarire, quando si parla di guide straniere, non vuol dire che guide straniere non possono essere abilitate a Roma o a Firenze o dovunque. Ci sono nostre colleghe bravissime, meravigliose, tedesche, americane, inglesi, brasiliane, che vivono a Roma da anni, che hanno l'abilitazione. Quindi stiamo ben attenti, la parola straniero non intende, non è necessariamente uno non abilitato e non bravo, dipende se conosce Roma e ha l'abilitazione. Secondo, bisogna stare molto attenti a quello che è adesso una moda, una tendenza, anzi direi ce ne sono due diverse. Una è la tendenza a sostituire professionisti con persone con il fai da te. Se guardate su internet, su web, trovate offerte di tutti i tipi, anzi addirittura le app su iPhone e così via, che vi offrono, facciamo la passeggiata, il tour con i locali, with the locals. Perfetto, ma quelli non sono professionisti, bisognerebbe che la gente... L'economia 2.0, capito? I giovani start-up si organizzano e portano a spazio. E propongono, a noi ci arrivano decine di proposte assolutamente ogni mese di queste nuove, chiamiamole agenzie, così via, di gente che si mette in proprio per fare gli affari, proponendo ma fate i tour con noi, venite, facciamo una cosa. Ma qual è il punto di caduta? Perché non funziona? Ma non funziona se vuoi la qualità. Poi chiaramente paghi poco o non paghi, ognuno ha per quello che paga, però credo che la gente dovrebbe stare attenta e capire che per le guide esiste un'abilitazione e un training professionale. Allora, se uno pensa di andare con una guida che si improvvisa guida dopo aver fatto tutta la vita, che ne so, dico qualsiasi cosa, lo chef o il bancario, qualsiasi cosa, aver letto dei libri o aver studiato non vuol dire saper fare la guida. Come dici esattamente, allora, il vostro lavoro in cosa consiste? Uno pensa, dice, ma sai, io sono laureato in storia dell'arte, figurati, posso portarli per i fori, gli racconto le cose che nessuna guida sogna. Sì, ma basta questo? No, ecco, questo è il problema. Molte di noi sono laureate, anche specializzate, ma non basta. Non basta innanzitutto perché il lavoro richiede una grande capacità comunicativa, che è quella del sapersi adattare al pubblico. Devi capire chi c'è davanti, chiaro. Esatto, sì. Perché quando io di base ero archeologa, ho fatto archeologa, e le prime volte che facevo le visite come archeologa, quando ancora non ero guida, si parte con la storia del foro romano, dalla necropoli, un po' di pensionati ex operai della Volkswagen, ma non solo, poi si imparano delle tecniche, devi imparare a parlare di ciò che vedi, di ciò che la gente vede, devi tenere testa l'attenzione, per non parlare poi di tutta una train pratico che è, a parte l'aggiornamento, ma comunque una guida deve sapere benissimo a memoria quelli che sono gli orari dei musei, evitare di arrivare in un posto e ops, mi sono dimenticata che oggi questo monumento chiude prima, e così via. Sapersela gestire, tu immagina il problema a Roma dei pullman, del traffico, di quello che è il piano pullman, quindi per andare in un monumento devi sapere dove devi scendere, che percorso far fare al gruppo, è veramente una specie di corsa agli ostacoli. Quindi essere guida è un misto tra preparazione culturale fondamentale, ma anche una grande capacità gestionale, organizzativa e di comunicazione. E di conoscenza del territorio. Sì, quindi un insieme di capacità, ovviamente, che non si improvvisano. Paola Secco, a integrare quello che ha detto adesso Isabella, vediamo di capire, ad esempio, quali sono i problemi base vi trovate ad affrontare e gli imprevisti molte volte nel lavoro di guida. Roma è una città abbastanza caotica, è piena sempre di imprevisti, e quindi soprattutto calcolare la tempistica per arrivare da un sito a un altro, e mettendoci in mezzo anche un ristorante, e trovandosi imbottigliati nel traffico, o che l'autista non riesce a arrivare a prendere il gruppo e a portarlo, se abbiamo un gruppo per esempio da una parte all'altra. Ma c'è un piano B? Cioè la guida il piano B, beh, il piano B sì, uno risolve anche bisogna sempre averlo, anche che ne so, riempendo quei buchi e portando il turista, distraendolo a vedere altre cose o parlargli del programma che sarà nei prossimi giorni, o anche una certa simpatia, quello ci aiuta molto. Bisogna essere molto comunicativi, perché io penso che alla fine il turista viene e esige dalla guida una certa preparazione culturale e che lo intrattenga culturalmente, ma anche bisogna ricordarsi che è in vacanza e che quindi si dovrebbe presentare. Non può essere l'università andare in vacanza. No, ecco, non bisogna fare un trattato universitario, descrivere le architetture sotto un profilo troppo. Chi va per studio poi ci va da solo o si trova una guida personale. Sì, alla fine si prende un momento, deve essere, diciamo, la guida deve essere molto disposta, disponibile a tutte le realtà e tutte le soluzioni, ma anche parlare del più del meno della Roma di oggi, non solo soffermarsi su quello che è stata una città. Sono preoccupati oggi a venire a Roma i turisti? Ti pongono problemi? Sì, sono preoccupati, non tutti ovviamente, perché ce ne sono a Roma in questo momento, poi dipende dalla nazionalità, e c'è stato un calo. Come lo vedi? Come lo vedi il Giubileo? Io il Giubileo per ora non si vede, cioè come si era declamato. Prima entrare Giubileo dalla Porta Santa che entrare da San Pietro. L'altro giorno io ho fatto così, avevo poche persone, c'era più fila per entrare in Basilica perché hanno fatto delle entrate differenziate per meglio gestire. Per la Porta Santa. Sì, sono entrata attraverso l'entrata della Porta Santa piuttosto che fare, c'era poca fila per entrare nella Basilica. Matteo, buongiorno. Quale problema buongiorno. Pone? Sì. Matteo. Matteo, sì, la sto sul tempo. Buongiorno. Sì, sì. Buongiorno, l'abbiamo detto. Sentite? Sì, la sentiamo, vada al punto. Guardi, io sono un laureato in beni culturali per la progettazione e gestione dei sistemi turistici, che è un corso di laurea che è stato istituito con le riforme universitarie, e sentendo la discussione sulla professionalità usate nel settore turistico, vi informo che noi laureati in turismo non possiamo operare in enti pubblici, perché i concorsi che vengono emanati dagli enti pubblici non includono la nostra classe di laurea, e quindi la nostra professionalità non viene usata, compreso nell'abilitazione per le guide turistiche. Quindi non potete fare non potete essere abilitati? Come, scusi? Non potete fare la guida abilitata, perché no? Diciamo che noi dobbiamo fare l'abilitazione come una qualsiasi altra laurea, pur essendo laureati in turismo, quindi avendo studiato... Mi sembra avendo giusto studiato questo. Tutte quelle tecniche di cui si parlava. Una cosa è la teoria, anche uno che ha lavorato in giurisprudenza può fare l'esame di abilitazione per fare l'avvocato, anche un giornalista dopo il praticantato dare un esame di Stato. Vediamo come le risponde la Isabella Ruggero. Direi che è così, perché a questo problema si potrà avviare solo nel momento in cui l'Italia decidesse di fare come la Grecia, per esempio, che ha un corso, chiamiamolo di laurea, specializzato per diventare guida, ma questo deve essere riconosciuto dallo Stato. Bisogna fare una totale riforma delle leggi turistiche in Italia, perché al momento la legge comunque prevede che per diventare guida turistica bisogna giustamente passare un'abilitazione, perché il fatto che uno esca da un determinato corso di laurea bene, come ci sono uscita io con tutti gli altri, non vuol dire saper fare la guida. Quindi mi dispiace, ma credo che l'abilitazione ancora abbia un suo senso, altrimenti dobbiamo riformare tutto, se ne può parlare. A me sono quei corsi laurea che sono belli, sono tanto bravo a prepararlo, creativi, ma comunque come scienza della comunicazione l'esame l'abbiamo passato tutti. Abbiamo tonnellati laureati in scienza della comunicazione, poi vanno a bussare ai giornali, alle televisioni e dicono siamo laureati in scienza della comunicazione, e fanno loro una risata in faccia, dice divertitevi. Un corso di laurea d'imposta potrebbe essere un'ottima idea, però ripeto, deve essere studiato e bisogna fare una legge in proposito. E soprattutto con strumenti poi concreti per entrare, certo, subito in una professione. 800240024, come vedete il problema delle guide turistiche non è proprio un problema di secondo ordine o trascurabile. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Rispetto alla telefonata di poco, anzi, nella pausa, le due mie ospiti, una è laureata in architettura, l'altra in archeologia, quindi sono messe in gioco, nel senso che hanno deciso di fare questa professione. La loro specializzata non è mai specializzata al punto tale per poter poi dire esattamente ho gli strumenti professionali. A me questo in Italia succede, ci sono le cosiddette corsi laurea creativi, sono molto belli, stimolanti. Una volta era il DAMS di Bologna, a cui si iscrivevano tutti i ragazzi con grandi aspirazioni, ma che fine hanno fatto i tanti laureati al DAMS oggi? Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, ho seguito con interesse quello che ha detto la signora alla guida. Io sono invece un accompagnatore turistico e lavoro non all'estero come lavorava mio precedente collega, ma lavoro principalmente in Italia e a Roma, l'80% del che faccio in coming. Volevo cercare di fare anche un po' di chiarezza e fare una non una provocazione, ma porvi una questione, una domanda. Allora, è stata inserita questa legge del 2013 che riguarda la guida nazionale, perché significa che anche gli accompagnatori, cioè nel mio caso colui che lavora col gruppo dalla mattina alla sera, dovrebbero essere abilitati a diventare guida nazionale, o la guida nello specifico della provincia di Roma, di Viterbo, che sia, diventa guida nazionale, cioè può agire in tutto il territorio. Poi dovrebbero essere invece, diciamo, emanati degli elenchi di siti specializzati nelle quali si può lavorare solo attraverso l'abilitazione, che anche mi pare le guide devono avere. Ma questo perché, Nicoletti? Perché in Europa non esistono negli altri stati delle figure professionali solo di guida locale, ma l'accompagnatore guida, diciamo, guida tour guide viene chiamato. Sì, ma non esistono nemmeno dei luoghi così specificamente pieni di storia come i nostri. Quello che abbiamo detto prima. Sì, lo so, se mi consentite. Sì, prego. Ecco, io volevo dire questo. È vero che non ci sono tutti questi luoghi così specifici, ma è anche vero, io lavoro da 30 anni sul campo. A me non è data la possibilità di poter scendere dall'autobus e farmi una passeggiata all'interno di Roma e parlare della città, perché deve essere fatto dalla guida. Io non parlo di carote quando sono con i clienti, io quando vado a fare tutte le visite... No, facciamo che siano solo per capire. Allora, lei dice, si sente una sorta di sottospecie professionale rispetto alle guide, dice io non sono guida perché non posso, visto che le so le cose, accompagnarle. Le risponde Isabella Ruggero. Non può, perché la legge italiana prevede che esistano due figure professionali, lei lo sa bene, che è l'accompagnatore e la guida. Tantissime sue colleghe lo sa benissimo, negli ultimi anni hanno, dopo essere state accompagnatori per tantissimi anni, hanno fatto l'esame di abilitazione per diventare guida. Adesso sono guide, prima erano accompagnatori, ma la legge è uguale per tutti, serve un esame di abilitazione e non c'è motivo per cui non si debba farlo e qualcuno lo possa superare. Non lo supera chi è laureato, non lo superano altri, questa è la situazione. Poi se vogliamo andare verso una totale deregolamentazione per cui tutti possono fare tutti, andiamoci, però andiamo verso un abbassamento di livello totale, cioè il fatto che ognuno voglia per sé, come prima la persona che ha intervenuto. Va bene, lui aveva un tale corso di laurea, lei ha l'esperienza trentennale di accompagnatore che noi sappiamo benissimo che è favolosa, ma se ognuno per sé vuole una speciale deroga, il risultato è che chiunque potrà fare la guida e questo vuol dire abbassamento totale di livello. Rispondere a quello che ha detto adesso lei? Allora, questo sicuramente in un'ottica di iperspecializzazione, le faccio presente che i gruppi con i quali lavoriamo noi sono molto variegati e noi quando prendiamo un gruppo, e lei lo sa molto bene, significa differenziare rispetto all'utenza che ha di fronte, ci possono essere due modalità. quella che lei segue, dice, come guida do una serie, e l'ha detto lei prima tra l'altro, cioè quando noi prendiamo un gruppo dobbiamo anche intrattenere, a un certo punto ha detto poi che c'è qualche sì, problema. Sì, però che non vorrei fare un problema fra voi, va, poi va a vedere fra voi, ho capito, si è capito, la legge è così, e in questo momento se la legge è così, trovate strumenti per cambiare la legge, non so che dirle, capisco la sua pretesa giusta, lecita, di voler fare altre cose, però al momento deve dare un esame di abilitazione, come tutti mettono in crisi e hanno giuste a volte motivi per parlare dell'ordine giornalista come una cosa antiquata, però ancora oggi se non sei giornalista professionista come sono io, che si dà un esame di Stato, non si può svolgere il mestiere di giornalista. Quando cambierà la legge ci adegueremo tutti alla nuova legge, adesso è così. Luciano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo portare la mia esperienza, io faccio la guida da quasi 30 anni, quindi posso dire di averne viste di tutti i colori. In che città? Non voglio... di Bari. Bari, benissimo. E quindi parliamo comunque di una realtà non centrale come quella di Roma o di Firenze come si sta parlando adesso, ma vi posso garantire che le problematiche in ambito nazionale sono molto... A Bari diverse. Dove li può tenere? La manna di San Nicola? Cosa vuoi fare? Certo. Certo. No, al di là di questo, ecco, volevo diciamo condividere alcuni divertenti. No, vedo ridere al di là del vetro, è una sorta di liquame che esce fuori dalle ossa sì, di San Nicola. È un liquido profumato che trasuda dalle ossa del che sarebbe il dopobarba ovviamente. Del prete che gestisce la... Sì, diciamo beh, guardi, viene anche venduto, quindi... Ah, si vende? Certo, si può. Una volta hanno poche gocce, queste ossa buttano fuori un sacco di roba. Sì, si viene diluito con acqua, però è possibile anche, acquistarlo. Vabbè, comunque è più un fatto di fede che altro. Però io volevo dire, volevo parlare insomma di altro, perché a me molto spesso capita di lavorare con dei giapponesi che hanno al loro seguito un accompagnatore, quindi parlo in inglese, faccio la guida in inglese e poi lui traduce in giapponese. Sì, perché i giapponesi, oltre al giapponese, hanno grandi difficoltà a parlare. Esattamente, la cosa divertente è che molto spesso ci mandano degli accompagnatori che non sanno parlare in inglese, quindi non capiscono quello che noi diciamo o capiscono una piccola parte. E in realtà poi non traducono, perché dicono il compitino che loro gli è stato assegnato. Quello che hanno imparato leggono a memoria. Esattamente, che molti più delle volte non ha niente a che vedere con quello che stiamo vedendo. È chiaro che noi percepiamo da alcune parole il però, senso Luciano, di quello se che loro dicono. Sono contenti così, le faccio un altro esempio. I giapponesi certo. A Roma, in tutto quello c'è da vedere a Roma, vanno a infilare la mano in quello che era un tombino della fogna, che la bocca alla verità, perché hanno visto Vacanze Romane, e stanno certo. Lì a fare ore di fila per farsi la foto e fanno ok con la manina infilata nel tombino, e per loro quella è Roma. E che devo fare? Sì, ma sono d'accordo con lei, era per testimoniare il fatto che esiste tutto sommato un certo far west nell'ambiente, per cui anche per le guide magari a Roma accade molto meno, ma le garantisco che in altre realtà più periferiche ci sono guide abusive, guide che non hanno nessuna esperienza, che per poche decine di euro fanno la guida e non vengono scelte dagli agenti. Quelli sono come taxisti, sono brave, abusivi, però... ma semplicemente per una faccenda di prezzo. Sì, ma sono contro la legge o sbaglio? Certo, ma non viene fatta rispettare. Sentiamo un attimo Isabella Ruggero sugli abusivi. Gli abusivi è una piaga costante da anni che andrebbe combattuta con i controlli. Che ma come si vedono gli abusivi? Come ti fermano per strada? Sono quelli che ti fermano col giubbotto? Guarda, non necessariamente. Quelli che ti fermano per strada, che la gente conosce, in realtà sono quelli che vendono, da parte dell'agenzia, vendono il tour. Quindi è una specie di intermediario. Poi il tour viene fatto a volte anche da guide ufficiali, a volte da guide non ufficiali. I tour operator, le agenzie, in genere, quando usano quelli abusivi perché costano meno, quindi per risparmiare. E normalmente sono quelli che non hanno il nostro badge, noi abbiamo il tesserino ufficiale, ma purtroppo vi garantisco che ormai a Roma si sono inventati anche quelli falsi, quindi vanno in giro con, c'è chi va addirittura con la tessera sanitaria, abbiamo visto di tutto. Quindi se tu non conosci un vero badge, cioè è anche difficile da riconoscerlo, quindi guardi, per la gente sono anche le trappole. Ti vengono a casa a venderti le bollette della luce alla corrente con dei finti badge, è una vecchia questione. Beggio non dice nulla. Il problema è che dovrebbero essere fatti dei controlli, e soprattutto quello che serve è dovrebbero o poi al controllo dovrebbe scattare la multa, ma questo dovrebbe essere fatto tutti i giorni in tutti i luoghi di Roma. Noi che siamo guide ufficiali sappiamo benissimo dove stanno gli abusivi, ma se tanto non vanno dentro a prenderli, a fare la multa, a sciogliere il gruppo e a far rispettare la legge, le leggi ci stanno ma non le rispettano, e lì è un problema di vigili, cioè dipende dai vigili, quelli che si occupano della parte turistica, e ne servirebbero a decine per far rispettare la legge. Io già è vigile non pensare ai venditori abusivi di borsette, ai taxisti abusivi, agli abusivi degli abusivi, a quelli della Fontana di Trevi. Giorgio, buongiorno. Giorgio. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Sì, ascolto. No, soltanto per rispondere alla domanda che è stata fatta prima, dell'intervento che è stato fatto prima, io faccio benissimo le iniezioni e non per questo devo fare il farmacista oppure il dottore. Un'altra cosa, io sono compagno di una guida di Roma e è impressionante la moda di lavoro, il lavoro che fanno, tra la preparazione dei siti archeologici, che comunque già ce l'hanno storicamente perché mia moglie è laureata, la mia compagna, ma si devono organizzare perché Roma cambia. Domani è possibile vedere una cosa, domani, dopodomani non è possibile andarci con l'auto. Beh, questo però dà ragione a quello che stiamo dicendo noi, è un lavoro che deve essere in continuo aggiornamento. No, è un lavoro completo. Ma immagina Roma questi giorni, ci sono le targhe alterne, improvvisamente sarà due giorni, cambia comunque l'architettura della città. Immagini Roma che un giorno sì, un giorno no, c'è uno sciopero delle metropolitane, uno sciopero degli autobus, o il centro è bloccato per qualsiasi ragione, o c'è l'allarme bomba. La capacità della guida è quella di sapersi adattare a quelle che sono situazioni. Ma rispondo a quello che mi scrive, che mi dice salviamo un'altra lobby dopo i tassisti, anche quelle guide, deregulation. Ma la deregulation a chi porterebbe vantaggio secondo te? Assolutamente a soltanto tutti. A chi pensa di poter fare quello che vuole avendo letto qualcosa, nell'idea che ciascuno può fare tutto. Io non credo che qualcuno possa pensare di fare il medico senza aver studiato medicina, aver passato l'esame. Nessuno andrebbe ad abitare in una casa non progettata da un ingegnere architetto. Allora perché bisogna pensare che invece tutti possono fare le guide? Per questo è un paese in cui dire che bisogna studiare per fare un lavoro è qualcosa che va contro lo spirito comune. Grazie. No, finita la trasmissione, dobbiamo lasciarci. A domani.